caso insultare tutti. A New York se ci andrò chissà quando. Fissato col tempo e quello che non c'è. Scambia, c'è il caldo, la guerra, peggio non c'è. Quindi me la vivo così, forse mi piace. E canto in strada, squarciagola, anche se piove, anche se è tardi. Voglio riascoltare sta canzone quando sono ubriaco. Le poesie e malattie l'ho bruciate, adios. Yeah, yeah, yeah. Se il tempo ce lo permette ne parliamo mai. Cerco persone simpatiche vicino a me.